I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Il telefonino Apple può diventare una carta di credito. Da ieri è operativo anche in Italia Apple Pay, il sistema di pagamento con iPhone sviluppato dall'azienda di Cupertino e lanciato nel 2014 negli Stati Uniti. L'Italia è il 16° paese in cui l'azienda di telecomunicazioni sfera la sua offensiva al sistema bancario. Alcuni partner erano già noti. Apple Pay supporta carte del circuito Visa e Mastercard, se erogate da Unicredit, Carrefour Bank e Boon, una app che consente di caricare una carta prepagata di una banca, anche se questa non è ufficialmente partner di Apple. I nuovi alleati della casa di Cupertino saranno a breve Mediolanum e American Express, mentre nei prossimi mesi del 2017 arriveranno carta BCC, Expedia Smart, una carta aziendale, Fineco, Hype, prepagata elettronica, NS26, startup di Berlino che offre servizi bancari per smartphone, e Widiba, banca digitale di Montepaschi. Per far funzionare il nuovo sistema basterà avvicinare il telefonino al POS contactless e usare il lettore di impronte digitali per essere autenticati ed effettuare il pagamento. La Apple scommette sull'Italia, dove i POS di ultima generazione sono già oltre 1 milione, con una penetrazione fino all'80% in città, ad esempio come Milano. La concorrenza non manca, perché anche Samsung Pay si sta attrezzando ed è già operativo anche Android Pay, senza contare le iniziative delle singole banche o di Poste Mobile o di Vodafone, solo per citarne alcuni. I giochi quindi sono aperti e sarà sempre più anacronistico e fuori mercato chi si ostinerà a dire di non avere il bancomat, come purtroppo ancora accade. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. L'offensiva delle autorità di vigilanza internazionale, soprattutto delle autorità antitrust, sui movimenti dei grandi colossi del web, i nuovi protagonisti della new economy, sia in campo finanziario che soprattutto in campo delle regole della competizione, continua senza sosta. Ancora una volta è Facebook, il colosso dei social network, che proprio pochi giorni fa era stato condannato dal nostro antitrust, quello italiano, a una sanzione di 3 milioni di euro per i legami fra WhatsApp e Messenger, è stato condannato questa volta dalla Commissione europea a una maxi sanzione di 110 milioni di euro, non per aver dato informazioni ingannevoli ai consumatori, ma in questo caso alla stessa Commissione antitrust europea, quando nel 2014 acquistò WhatsApp. La multa è una delle più alte in questo settore e conferma la linea dura delle autorità, soprattutto europee, nei confronti di queste società che, con un piede in America e un piede in Europa, violano spesso le regole, muovendosi proprio nei meandri dei buchi legislativi. Da un punto di vista finanziario, dicevamo, la multa non è elevata per una società che nel 2016 ha messo a segno profitti netti per 10,2 miliardi. In un'ottica politica, però, la decisione è notevole. Bruxelles ha voluto avvertire Facebook, ma tutte le società del settore, che sarà sempre più attenta ai numeri, alle cifre e alle informazioni che queste danno nel momento di comprare un concorrente. Concorrente che può cambiare non soltanto il corso dell'impresa, ma soprattutto le regole del gioco con i consumatori. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.